Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 21 marzo il sole in regione è sorto alle 6:10 e tramonterà alle 18:21. La luna è crescente, sarà piena domenica prossima e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Rita Micoli. In apertura di questa puntata andremo a visitare il nuovo laboratorio sensoriale dell'Ateneo del Friuli. È stato appena inaugurato e si mette al servizio delle aziende dell'agroalimentare. A seguire, nella rubrica del bio, vedremo come le colture traggono giovamento dalla diversificazione, con più produzione e meno necessità di fertilizzanti. A proposito di vino, parleremo delle molecole odorose che lo profumano in modo tanto vario, mentre nell'orto scopriremo le caratteristiche della patata e le dritte per coltivarla. Spazio poi alla storia del riso e a un antico e tipico dolce della Pasqua, la titola triestina. Andamento dei mercati, previsioni meteo per la settimana con una nota di climatologia locale e il proverbio friulano chiudono la puntata. L'Uniud Lab Village, l'area volano per il trasferimento tecnologico dell'Università di Udine, si arricchisce di un altro tassello. Nel polo scientifico dei RIZ, infatti, ha appena preso il via l'attività del nuovo LABAS, Laboratorio di Analisi Sensoriale. È stato appena presentato, naturalmente online, visti i tempi di pandemia, ma oggi ne possiamo parlare con Nadia Innocente, docente di Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università di Udine. Professoressa Innocente, a lei chiediamo innanzitutto una descrizione di questo laboratorio sensoriale. Come è fatto? C'è una cucina professionale attrezzata, che forse è il cuore del laboratorio, che serve per la conservazione ma anche per la preparazione degli alimenti che poi devono essere analizzati, preparazione che deve avvenire in maniera strettamente controllata. La cucina è poi collegata tramite dei portellini scorrevoli a 5 postazioni d'assaggio, che sono delle postazioni dove è possibile effettuare proprio la valutazione sensoriale in condizioni ambientali controllate e senza influenze esterne. E infine c'è un'area molto grande con 24 postazioni organizzata per l'addestramento del panel oppure per percorsi didattici e di formazione. Ecco, la cosa interessante è che ogni postazione è collegata ad un sistema informatico attraverso il quale noi ricercatori possiamo analizzare ed elaborare in tempo reale le risposte dei diversi giudici. Professoressa Innocente, l'ABAS che utilità può avere anche per le piccole aziende dell'agroalimentare dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia? Certamente avrà un grande utilizzo, perché queste piccole aziende molto spesso non hanno i mezzi, le competenze e talvolta neanche le forze umane per poter eseguire da sole l'analisi sensoriale. Quando si parla di analisi sensoriale non si intende degustazione, si tratta piuttosto di un metodo effettivamente scientifico. Qual è il fine ultimo dell'analisi sensoriale? Ha a che fare anche con il marketing dei prodotti? Sì, effettivamente degustazione e analisi sensoriale sono due concetti molto diversi. Per quanto riguarda l'analisi sensoriale, all'interno di un'azienda alimentare viene utilizzata dalla ricerca sviluppo, dal controllo qualità e anche, come accennava lei, dal marketing. Consideriamo che l'aspetto sensoriale di un alimento è quello che il consumatore è sempre in grado di percepire e quindi è quello attraverso il quale dà un giudizio sul prodotto. L'ABAS sarà utilizzato anche per attività didattiche? Sicuramente sì. Nei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali ci sono almeno 3 diversi corsi di analisi sensoriale e inoltre intendiamo organizzare dei corsi di formazione per le aziende alimentari. Chi opera concretamente dentro un laboratorio di analisi sensoriale? Ma all'interno dei laboratori operano sicuramente i giudici, no? Che sono poi quelli che testano i prodotti. ma questi giudici devono essere anche guidati da un panel leader, così si chiama la figura di riferimento, che è quella che definisce gli obiettivi, progetta le sedute d'analisi e poi anche controlla ed elabora i dati. L'ABAS è parte integrante dell'UNIUD Lab Village, che è questa nuova area infrastrutturale dell'università. E infatti l'obiettivo di questa area è proprio quello di integrare il mondo della ricerca con il territorio produttivo. Cristina Micheloni ci racconta oggi tutti i vantaggi della coesistenza tra piante che funziona grazie a meccanismi che non sono ancora del tutto noti. Più volte abbiamo parlato della necessità di portare diversità nei campi e sulla tavola, e la ricerca più recente ci conferma quanto la diversificazione a livello aziendale, culturale e alimentare sia un fattore imprescindibile della sostenibilità ambientale, vera, non quella da etichetta, economica e della salute, anzi del benessere di uomini e animali. A questi già ottimi motivi si aggiunge la questione dell'efficienza nella produzione di cibo, l'evidenza che i sistemi diversificati producono di più per unità di superficie coltivata, quindi più quintali ad ettaro insomma, e hanno meno necessità di fertilizzanti per unità di prodotto raccolto, meno chilogrammi di azoto, fosforo e potassio per quintali di mais raccolto, tanto per capirci. Il momento attuale è perfetto per prendere ispirazione da una recente pubblicazione di un gruppo di ricercatori cinesi e olandesi, guarda caso due dei paesi che hanno fatto dell'intensificazione agricola un mantra. Una meta-analisi, ovvero una comparazione di pubblicazioni scientifiche sull'argomento, 47 in inglese e ben 43 in cinese, sugli effetti della consociazione tra mais e soia, intendo mais e soia coltivati assieme, a file alterne o a doppie di file alterne, seminati assieme o in momenti diversi, ad esempio con soia trasseminata nel mais in concomitanza con una sarchiatura, e raccolti o assieme o in momenti diversi, ad esempio prima il mais e poi la soia. I risultati indicano chiaramente come da questi sistemi le produzioni siano più elevate per entrambe le colture, abbiano meno bisogno di fertilizzanti, soprattutto azoto, ed anche meno necessità di interventi per il controllo delle malerbe. E perché tutto questo? Per un insieme di tanti piccoli ma concatenati fattori, tra i quali la positiva interazione e collaborazione a livello radicale dei microrganismi che seguono le due colture. La riduzione della lisciviazione dei nutrienti non utilizzati in una coltura è comunque intercettata dal sistema radicale. La copertura del suolo da parte delle colture che non lasciano spazio né sopra il suolo, quindi per la luce, né sotto per i nutrienti, alle specie avventizie e mantengono l'umidità. Insomma, un sacco di meccanismi, in parte nemmeno del tutto noti, che conferma come la collaborazione, anche tra le piante, sia sempre più produttiva dei pur bravi solisti. Ma allora perché non lo fanno tutti? Da un lato perché la mentalità della semplificazione in agricoltura è prevalente, mentre invece avremo bisogno di allenarci ed esercitarci su sistemi che più complessi sono e meglio è. Dall'altro ci sono due problemi pratici da affrontare, la meccanizzazione e i centri di raccolta e la loro attrezzatura e struttura. Per quanto riguarda la meccanizzazione ci servono macchine agili e leggere ma intelligenti per identificare le colture e muoversi al loro interno con agilità. Peccato però che i finanziamenti per la meccanizzazione sostengano solo un certo tipo di agricoltura di precisione, quella che con precisione proprio può fare pesanti danni. I centri di raccolta, essiccazione e prima lavorazione dovrebbero riorganizzarsi, aggiungere delle minime attrezzature come dei selezionatori. Ne avrebbero un vantaggio nel poter interloquire con gli agricoltori più avanzati. Anche qui però la mentalità della semplificazione, che fa rima con globalizzazione, ma anche con monocoltura e bassa redditività, impera. Come scriveva qualcuno, se c'è da cambiare sistema e non c'è alternativa, bisogna prima scardinare le monocolture della mente. Per la rubrica del vino, il professor Roberto Zironi ci spiega dove si nasconde il profumo dell'uva, ovvero quali sono le molecole odorose che poi dal bicchiere arrivano al nostro naso. L'incontro precedente avevo affermato che le uve non presentano delle note olfattive particolari. Cerchiamo oggi di capire perché. È legato alla particolare conformazione delle molecole responsabili di queste note olfattive. Nell'uva di fatto sono presenti, ma non sono presenti in forma libera, ma, come si definisce, in forma di precursori. Quindi, in pratica, nell'uva queste molecole sono nascoste. Quando noi andiamo a operare una pigiatura, una rottura del frutto, o durante la fermentazione, esistono delle particolari molecole, chiamate enzimi, che riescono a rompere questi legami e le note olfattive possono risultare evidenti, ad esempio nella masticazione dell'uva, o in particolar modo nella olfazione di un vino. Quali sono quindi le sostanze presenti nelle uve che daranno poi nel vino i caratteri particolari? Fondamentalmente appartengono a quattro famiglie distinte con caratteristiche diverse. Le prime sono le pirazine, sono le molecole che sono presenti in tutti i tessuti verdi, presentano una certa componente di azoto e hanno come descrittore il peperone verde. Quindi quando le uve non sono mature avremo note di peperone verde, più le uve sono mature più queste note andranno a scomparire. Se voi pensate a certe note caratteristiche del Cabernet Sauvignon o del Cabernet Franc o del Merlot o del Sauvignon, ecco che vi verranno in mente queste note di peperone. Poi abbiamo i terpeni. I terpeni sono invece i principali responsabili dell'aroma floreale del vino e sono presenti in tantissime varietà, quali ad esempio i vini moscato, le malvasie, il Gewurztraminer. Sono delle molecole che aumentano la loro concentrazione con l'aumentare, col procedere della maturazione. Poi abbiamo i composti a 13 atomi di carbonio, non risoprenoidi, che sono ugualmente dei componenti presenti in molte uve, specialmente a bacca rossa, e sono responsabili di note, diciamo così, da fiori esotici, tipo l'orchidea, la bougainville, la passiflora, ma anche note, diciamo, caratteristiche di frutti di bosco, di frutti rossi. Poi, infine, i tioli volatili, riconosciuti e identificati per la prima volta nel Sauvignon, che danno tutte quelle note caratteristiche di frutto della passione, di agrume, quello che viene definito, diciamo, comunemente pipì di gatto, ma quello non lo è, chiaramente. Sara Bosco per l'angolo dell'orticoltura ci dà alcuni consigli sulla coltivazione della patata. Esistono svariate tipologie di patate che si differenziano per il colore della buccia o della polpa e per la lunghezza del ciclo di coltivazione. Nel nostro ambiente vengono piantate generalmente in primavera, tra marzo e aprile, in funzione dell'andamento delle temperature. Per la semina vengono impiegati i tuberi, che ci impiegano dai 3 ai 5 mesi per completare il loro ciclo. Questi organi sono dotati di occhi, ovvero delle gemme, che daranno origine a una nuova pianta. Va però precisato che non tutte le gemme origineranno un fusto. Se i tuberi sono di grandi dimensioni, si può ricorrere al taglio in più parti, purché si abbiano delle parti con un peso almeno di 20 grammi e con almeno 2 gemme. Il terreno che ospiterà questa coltura è preferibile sia leggero e profondo. È una pianta che richiede una buona concimazione, che di solito avviene sia in fase di presemina che durante la coltivazione. I tuberi vanno disposti a una profondità di almeno 10 cm, a una distanza tra i vari tuberi di circa 30 cm, costituendo poi delle file distanziate circa 70 cm. Durante la coltivazione le pratiche che vengono effettuate di norma sono 1-2 rincalzature. E anche un'altra pratica importante è l'irrigazione, in quanto la patata richiede un buon quantitativo d'acqua. La raccolta avviene quando le piante si seccano, tranne che per le patate novelle che vengono raccolte con la pianta ancora verde. Le patate vanno conservate a bassa temperatura e in luoghi bui, affinché non si sviluppi la solanina, che provoca un cambiamento del colore della buccia che diventa verde. La storia del riso in Friuli Venezia Giulia con Adriano Del Fabbro, oggi la prima puntata di un percorso nella coltivazione locale di questo cereale di cui la popolazione della regione è sempre stata forte consumatrice. Ci fu un tempo in cui veramente il riso abbondava sulla bocca dei friulani. Alla fine degli anni 20, infatti, contro un consumo nazionale medio pro capite di 24 kg, i friulani ne consumavano ben 50, ma andiamo per ordine. Giuseppina Perusini Antonini segnala un inventario scritto del 1446 in cui il notaio Iannis de Cividale elenca pure un sacchetto sigillato di riso, sicuramente di provenienza non locale. Potrebbe essere questa comunque la prima notizia documentata del consumo di riso in Friuli. Nel 1500 il senese Pietro Mattioli, che fu medico anche a Gorizia, parla del riso sia come alimento che come medicamento, avendo azione astringente. Dati d'archivio precisi, riferisce Valerio Rossiti, li abbiamo dopo il 1500 nella zona di Fraforeano. I Badoer nel 1600-1700 compirono le prime sistemazioni irrigue nella zona. Fin dal 700 anche altre zone del Friuli furono interessate da tale coltivazione. Il Monfaconese, a Castigliano, a Titiano, a Paradiso e a Aquileia. Qui si ha notizia di coltivazioni iniziate certamente nel 700, durate per tutto l'800 e abbandonate nei primi decenni del 900. A probabile testimonianza di tutto ciò, ancora nei pressi di San Lorenzo di Fiumicello vi è il toponimo Risera. Sempre a Fraforeano nel 1752, il fittavolo Antonio Gaspari diede grande sviluppo alla cultura del riso, introducendo la prima risaia a Vicenda. Successivamente, nel 1876, un gruppo di industriali di Lodi introdusse la sistemazione delle marcite lombarde. Ma è il conte Vittorio de Asarta, a partire dal 1883, a dare alla tenuta il massimo splendore, con risaie che si estendono su 600 ettari e occupano oltre 500 persone. Le mondine in particolare giungono qui pure da fuori regione. Dalla parte del Friuli imperiale si segnala come il governo del litorale nel 1836 dettasse regole stringenti in merito alla coltivazione del riso. Il 22 febbraio 1844 venne pubblicata sull'Osservatore Triestino una memoria intitolata Esito delle risaie nel territorio di Monfalcone, con cui l'abate botanico Leonardo Brumati riferiva su un esperimento mai riuscito di coltivazione del riso. Sempre lo stesso anno, però, il Brumati, scrivendo di riso mutico, afferma che, se coltivato in buon terreno e brillato a dovere, non cede in bontà all'altro il riso irrigabile. Va ricordato inoltre che, in alternativa alla coltivazione tradizionale, nel 1829 furono effettuate nella contea principesca di Gorizia e Gradisca, a cura di Carlo Cattinelli e del conte Giuseppe Strassoldo, sperimentazioni con il riso a secco. Con Roberto Zottar ci immergiamo in piena atmosfera pasquale, protagoniste le trecce dolci con l'uovo rosso, conosciute con tanti nomi in regione e dal significato fortemente simbolico. Tra poco celebreremo Pasqua e la gastronomia è caratterizzata da alimenti fortemente simbolici, l'agnello, la colomba, le uova. L'uovo, per tutte le culture antiche, aveva un enorme valore simbolico, immagine della perfezione, era il simbolo della vita e della rinascita. Per Pasqua i ragazzi impiegavano le uova anche per giochi tradizionali. Il più diffuso era il try aluf, tira l'uovo, dove un ragazzo poneva a terra un uovo sodo e un altro lanciava una moneta. Se la moneta restava conficcata nell'uovo aveva vinto, altrimenti la moneta andava al proprietario dell'uovo. Si potevano anche lanciare due uova lungo un pendio, in modo che uno colpisca l'altro e l'uovo che si rompeva aveva perso. La tradizione richiede di inserire uova sode colorate di rosso anche in pani e focacce pasquali, e questa usanza è comune non solo in più parti d'Italia, ma anche nelle zone del Mar Nero e delle isole greche già dal tempo dell'Impero Bizantino. Ostermann, a fine Ottocento, raccontava che le pasticcerie e i fornai del Friuli vendevano per Pasqua pani dolci lievitati a forma di colomba con un uovo colorato al centro, chiamate anche muinis, monache o colombis. Se oggi questo dolce è quasi scomparso, a Gorizia e a Trieste rimane viva la tradizione di donare ai bambini delle trecce di pan dolce lievitato che racchiudono un uovo rosso. È il famoso frate, o menich, o ticica in dialetto sloveno, conosciuta a Trieste anche come titola, nome attestato già alla fine del XVI secolo, che Medifast fa derivare da Titus, colombo selvatico, anche a conferma del corrispondente nome colombina che si dà allo stesso dolce. Questo lievitato riunisce la tradizione cattolica con quella greca e serbo ortodossa, sebbene le rispettive feste di Pasqua si celebrino in date diverse secondo i calendari gregoriano e giuliano. Nell'iconografia religiosa popolare, pinza, presnitz e titola sono i simboli della passione di Cristo. La pinza rappresenta la spugna imbevuta di aceto con cui i soldati romani facevano bere Gesù sulla croce, il presnitz è la corona di spine e le titole simboleggiano i chiodi usati nella crocefissione e le uova tinte di rosso sono i sassi del Calvario marchiati di sangue. Per preparare le titole prendete del pane al lievito dolce o della pasta per pinza, la cui ricetta troverete su Facebook. Dividete la pasta in vari rotolini di circa 30 cm di lunghezza, intrecciateli a 3 a 3. Nell'intreccio di testa inserite un uovo tinto di rosso. Lasciate lievitare, spennellate con tuorlo e cuocete in forno a 180 gradi per 30 minuti. Buon appetito! Con Amos D'Antoni ora uno sguardo all'andamento dei mercati agricoli. Andamento debole con prezzi cedenti, eccetto la soia, che ha avuto un mercato in salita completamente diverso dai cereali. E venerdì scorso, nelle contrattazioni della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21,40 e 21,60 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 22 e 22,30, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 18,50 e 19 euro e la soia tra 55,20 e 55,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 4,30 euro e la soia di 20 euro al quintale. Passando ai bovini da macello, si rileva una leggera ripresa nelle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,30 e 2,60 euro al chilo IVA esclusa e quelle di seconda tra 1,60 e 2,30. Mentre il mercato dei vitelli da ristallo conferma le quotazioni e l'ultimo andamento accerta che i Blue Belga maschi vengono pagati tra 5,80 e 6,30 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 4,80, i frisoni tra 1,30 e 1,60 e i bruni tra 1,20 e 1,40. Nel comparto suinicolo continuano spunti di ripresa, il valore del tondolo di 30 kg franco partenza si fissa a 3,37 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati a 1,36 il chilo. Infine nel settore degli avi cunicoli si segnala un mercato in salita con prezzi in rialzo, i polli a terra vengono pagati tra 0,99 e 1,01 il chilo IVA esclusa e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,80 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale. Domani inizia la primavera astronomica, ma le temperature di questi giorni farebbero pensare di essere ancora nella fase finale dell'inverno. Andando con ordine, possiamo dire che marzo per ora è stato caratterizzato da molte giornate con prevalenza di sole e il passaggio di pochi e deboli fronti perturbati. Le correnti in quota, spesso settentrionali, hanno favorito l'afflusso di aria relativamente secca sulla regione, ma anche delle fasi fredde. In particolare ricordiamo 2-3 giorni freddi intorno al 7 e l'ultima settimana, in cui il tempo è stato caratterizzato da notti e mattine con cielo sereno, mentre dal pomeriggio si è avuta variabilità con rovesci o brevi precipitazioni sparse, occasionalmente anche con dei fiocchi di neve fino al livello del mare, come è successo ad esempio nella zona di Trieste tra il 17 e il 18. L'instabilità pomeridiana è stata favorita dal riscaldamento del sole e dalla presenza di aria molto fredda in quota. Per contro, di notte, col cielo sereno, le temperature in pianura sono spesso scese di qualche grado sotto zero, determinando delle gelate. Sui monti il freddo si è fatto sentire costantemente in quota e di notte anche nelle valli, con temperature di diversi gradi sotto zero e in alcune località si è scesi attorno ai meno 10. Nei prossimi giorni il cielo rimarrà prevalentemente sereno, poco nuvoloso. Sulla costa a tratti solferà bora, anche sostenuta di notte, e vento forte si avrà anche in montagna, specie in quota. In pianura le temperature potranno scendere sotto zero fino a meno 4 nelle località non interessate dal vento. Le massime si attesteranno attorno ai 13 gradi in pianura, 10-11 sulla costa. A partire da martedì giungerà aria un po' meno fredda in quota e lo zero termico risalirà gradatamente fino a 2000 metri. Nella seconda parte della settimana il promontorio anticiclonico tenderà a ritirarsi sul Mediterraneo e sul continente europeo transiteranno dei fronti atlantici che però non interesseranno la nostra regione. Non pioverà dunque in un modo significativo per almeno altri 10 giorni. Le temperature minime risaliranno sopra zero in pianura a partire da giovedì e le massime si porteranno fino a 17-18 gradi. Come sempre vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti. Termina qui la puntata, ma vi lasciamo con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. L'aer di marzo annette i bearci, ovvero l'aria di marzo ripulisce i cortili. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi salutano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.